2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In questa puntata parleremo di, vi dico l'ultimo argomento che affronteremo, di dipendenza o indipendenza tecnologica dell'Europa, e poi ci spieghiamo meglio, ma pensate da dove vengono e dove sono sviluppati i sistemi che utilizzate tutti i giorni. Poi parleremo di cybercrime, parleremo di applicazioni per tracciare e per cercare di spezzare le catene di contagio del coronavirus, un po' di telemedicina e anche di droni. Iniziamo come sempre da alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Sono molto poche le notizie che non riguardano direttamente il coronavirus o le conseguenze del coronavirus anche sul mondo della tecnologia. Comunque c'è qualche notizia, anche se inevitabilmente qualche conseguenza di quello che stiamo vivendo lo subiscono anche lanci, proposte, idee, eccetera. Allora iniziamo da Disney Plus, che è stato lanciato, questo nuovo servizio che già esisteva negli Stati Uniti, è stato lanciato nei principali paesi europei senza nessun particolare problema di tenuta delle reti. C'è stata qualche segnalazione in Gran Bretagna, ma insomma tutto sommato tutto sotto controllo, anche se va detto pure Disney aveva garantito un abbassamento del bitrate come richiesto dalla Commissione Europea per non appesantire le reti di telecomunicazioni europee. E sempre su richiesta del principale operatore Orange, cioè ex France Telecom, una richiesta diretta, Disney ha deciso di posticipare alle 7 aprile il lancio in Francia. Però secondo le rilevazioni di App Annie, che elabora statistiche di download per Android e iOS, l'applicazione di Disney Plus è stata scaricata nel suo giorno di debutto 5 milioni di volte. In Italia siamo tra i 6 e i 700 download, comunque solo il primo giorno, tenendo conto che questo dato non include i dati su altre piattaforme come Smart TV, Samsung ed LG, le console di videogiochi e anche prodotti Amazon. Beh, il dato è sicuramente molto più elevato, il dato vero. Anche perché, diciamo, tra Smart TV, Samsung, che è leader di mercato nel mondo dei televisori, ed LG, non possiamo fare delle ipotesi, però possiamo dire che sicuramente altre centinaia di migliaia, se non milioni di persone hanno fatto il download di questa applicazione. Quindi in un botto solo, in pochi giorni, Disney Plus anche in Europa guadagna milioni di nuovi clienti e comincia a tallonare i leader, pensando che appena debuttato. Certo, c'erano delle offerte che comprendevano un abbonamento annuale, quindi vedremo poi dopo il primo anno che cosa diranno i consumatori. Attraverso un evento in streaming, Huawei ha presentato i nuovi P40, P40 Pro e ha fatto un'anticipazione su un futuro P40 Pro Plus. Sono telefoni 5G, arriveranno sul mercato ad aprile con prezzi da top di gamma, 799 euro per il P40 e 1049 per il P40 Pro. Migliora la parte di fotografia, anche se poco si può migliorare quando sei arrivato praticamente a fotografie perfette. Va sempre detto che ormai molti di questi telefoni che fanno delle gran belle fotografie richiedono anche un po' di competenza, eh? Non tutti questi telefoni fanno delle belle foto se non siete capaci di mettere le mani al posto giusto. Il problema principale di questi nuovi smartphone, quindi Huawei dovranno convincere i consumatori, è che a causa del boicottaggio americano verso Huawei, questi telefoni non hanno a bordo i servizi di Google. Quindi ovviamente uno smartphone senza le Google Apps, senza le applicazioni di Google, è uno smartphone che parte con qualche handicap. Allora, si allunga la lista di aziende che hanno aderito alla richiesta di abbassare il bitrate o comunque contribuire in qualche modo alla diminuzione del traffico internet in Europa. Questa settimana si sono aggiunte Microsoft, Sony, Facebook, anche Akamai, che è un operatore che distribuisce contenuti, che aiuta le aziende a distribuire contenuti in giro per la rete internet. I problemi più importanti sono stati rilevati, almeno preventivamente, in Spagna e Francia. Gli operatori di Francia e Spagna hanno più volte chiesto ai consumatori di non esagerare con l'uso di piattaforme online. Tutto sommato in Italia non sono segnalati gravi disagi. A proposito di operatori di telecomunicazioni, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange e Telecom Italia e altre quattro società di telefonia mobile in Europa hanno accettato l'invito della Commissione Europea a condividere i dati di posizione degli utenti in modalità anonima e aggregata. Tutto ciò per studiare la diffusione del virus. Altro capitolo invece la possibile applicazione che potrebbe essere utilizzata anche nel nostro paese, che in alcuni casi richiede una registrazione, una raccolta di dati che potrebbero impattare con le leggi sulla privacy, ma tra poco noi parleremo invece di una soluzione che è assolutamente a tutela completa della privacy. Sono tante le iniziative per cercare di avvicinare i piccoli negozi con le persone che devono stare a casa. Io resto a casa.delivery è una piattaforma gratuita che punta a fornire un elenco di negozi che fanno consegne a domicilio. I negozi devono registrarsi e poi sono loro che dovranno gestire le consegne e i pagamenti. Quindi questo sito internet serve solo per farsi conoscere. E ovviamente questo momento mette a prova il digital divide italiano, perché i negozi si devono un po' inventare. Certo, chi ha già piattaforme di logistiche e digitali per le consegne, aziende che hanno investito in alcuni casi anche decine di milioni di euro negli anni passati, sono già avvantaggiate, anche se sono prese d'assalto. Pensate che in alcuni casi il traffico e le richieste sono aumentati di 10 volte. I magazzini hanno dei muri e quelle sono le richieste che possono soddisfare. Sicuramente una cosa che molti potrebbero fare, visto che si dice molto non usate i contanti, usate almeno le carte di credito contactless, beh, una soluzione ancora più estrema da questo punto di vista e molto più utile, perché non c'è assolutamente nessun contatto, è Satispay o sistemi analoghi a Satispay, dove tu paghi dal tuo smartphone e non devi strisciare o avvicinare nulla. Tra l'altro è una cosa anche molto semplice che tutti i negozi potrebbero fare proprio per agevolare questo tipo di pagamento. Un'ultima notizia riguarda il cybercrime. Essilor, che fa parte del gruppo Essilor Luxottica, è stato oggetto di un attacco informatico che ha temporaneamente interrotto l'accesso ad alcuni server del gruppo e anche ad alcuni personal computer degli utenti. Lo ha dichiarato la società in una nota senza aggiungere molti altri particolari, se non che l'azienda è riuscita a risolvere il problema. Parliamo di droni. Alcuni limiti al loro uso sono stati sospesi per l'attuale emergenza per permettere più libertà alle forze dell'ordine nell'uso di queste macchine volanti per il controllo del territorio. Fabio Nicolai è il direttore centrale regolazione aerea dell'ENAC. Innanzitutto è stata data la possibilità alle forze dell'ordine di poter lavorare anche in zone dove prima bisognava chiedere un'autorizzazione, e parlo in particolare delle zone vicino agli aeroporti, definite zone rosse, nelle quali non si poteva accedere per evidenti motivi di tutela del traffico con i passeggeri. Chiarissimo, poi immagino che nella valutazione del rischio entrerà anche il fatto che il traffico aereo adesso è veramente ai minimi. Guardi, ad oggi siamo a meno 72,5%. Quindi questa è sicuramente una novità rispetto a prima. Ci sono altre limitazioni che sono state eliminate? Per esempio quello di poter operare in città. Noi sappiamo che oggi la regolamentazione prevede che il drone venga pilotato da remoto, ma che il pilota che lo telecomanda debba sempre vedere il drone. Questa è una limitazione che esiste comunque ancora oggi per questioni di sicurezza o no? Assolutamente sì, esiste ancora ed è un modo per essere sicuri che in ogni momento il mezzo aereo, che è a tutti gli effetti, ai sensi del codice di navigazione, un aeromobile, quindi per noi è allo stesso livello di un aereo che porta persone, sì. E quindi deve essere sempre in vista del pilota che in qualsiasi momento magari vede un elicottero che sta avvicinandosi, lui lo abbassa immediatamente. Questo deve essere chiaro a tutti. Una task force formata da tecnici di varie discipline dovrà valutare le 504 soluzioni di telemedicina e 319 per il monitoraggio attivo del rischio di contagio da coronavirus. Sono arrivate da aziende, enti di ricerca, associazioni al portale Innova per l'Italia che, coordinato dai Ministeri dell'Innovazione e della Salute, assieme all'Istituto Superiore di Sanità. C'è molto dibattito sulla opportunità di usare soluzioni di questo genere e c'è anche un ampio dibattito sulla possibilità che queste app raccolgano dati personali degli utenti. Devo dire che il ministro dell'innovazione Pisano è stata molto prudente, opportunamente prudente, dicendo no, bisogna che dobbiamo essere sicuri di come funzionano queste applicazioni, magari faremo anche un test su una zona, se ne verrà scelta una, se si prenderà quella strada. C'è chi dice chi se ne frega della privacy, ma invece ci sono molti che dicono no, attenzione, dobbiamo comunque garantire la privacy. Secondo Edward Snowden, permettere alle autorità di usare misure di sorveglianza individuali basate sulla tecnologia per contrastare il contagio del coronavirus potrebbe creare un precedente a danno delle libertà personali, un'architettura tecnologica destinata al controllo che trasformerebbe le società civili così come le conosciamo. Va però detto che c'è la soluzione. Fra i progetti arrivati ci sono anche soluzioni che si dimostrano molto efficaci pur garantendo un completo rispetto della privacy. Come mi ha spiegato Luca Mastrostefano, che è Lead Machine Learning Engineer presso il fondo di Venture Capital InReach, che ha creato un gruppo di ingegneri volontari chiamato a raccolta, ingegneri di varie parti del mondo, molti sono italiani, per realizzare un'app open source senza scopo di lucro che, senza raccogliere i dati degli utenti, sfrutta una rete di smartphone, ovviamente deve essere installata su più smartphone possibili, per tracciare i positivi e avvisare chi entra in contatto con queste persone con una precisione ed efficacia maggiore rispetto alle soluzioni GPS. Sentiamo come funziona questa applicazione. Allora, monitorando anonimamente le interazioni tra i device, possiamo segnalare persone a rischio, persone che sono state esposte al virus, in modo da permettergli di avere un trattamento il più velocemente possibile. Inoltre possiamo fornire degli strumenti per analizzare l'espansione del virus, migliorare l'efficacia della quarantena. E riguardo sì, lo stato tecnologico in questo momento è disponibile. Abbiamo già effettuato test di carico con più di 15 milioni di device. Possiamo scalare a 300 milioni nel giro di pochi giorni di lavoro, 3-4 giorni di lavoro. E stiamo testando la soluzione in Brasile, dove le istituzioni ci stanno prestando molta attenzione. Quindi sì, siamo pronti per distribuire l'applicazione anche in Italia. Tutto quindi parte da un'applicazione che si installa sul telefono, ovviamente la si installa su base volontaria, non c'è nessun obbligo e nessuno installa automaticamente questa applicazione, i cittadini la installano e ovviamente l'efficacia è maggiore quanti più sono i cittadini che se la installano, e questo sarà sicuramente una delle sfide proprio come sistema paese, e questo vale per la vostra applicazione o qualsiasi altra applicazione che verrà scelta. Ma partiamo proprio dall'inizio. Ovviamente bisogna avere un sistema che riesca ad individuare con maggiore efficacia rispetto ad oggi le persone positive al virus. Fatto ciò, che cosa, ecco, qui entra in gioco l'applicazione e che tipo di dati vengono inseriti all'interno dell'applicazione e come fate voi a garantire che nel rispetto della privacy si possano appunto individuare tutti i contatti con quel positivo o tutti gli altri positivi. Ecco, sì, hai sollevato molti punti interessanti. Il primo di cui vorrei parlare è la soluzione tecnologica. Ad oggi si legge sui giornali, i virologi anche dicono, il contagio avviene con un'esposizione di 15 minuti a meno di 2 metri. Stiamo vedendo molte applicazioni che effettuano il tracking GPS degli utenti. Sappiamo che il GPS ha una precisione che oscilla tra i 10 e i 60 metri, mentre la nostra tecnologia è focalizzata ed è estremamente precisa per interazioni al di sotto dei 2 metri. Il tutto non memorizzando la posizione dell'utente, ma esclusivamente le distanze tra device completamente anonimizzate. E come fate? Utilizziamo una tecnologia chiamata Bluetooth Low Energy, quindi anche il consumo sul cellulare è di gran lunga inferiore ai tracking GPS, si parla di un consumo che è inferiore al 3% per un giorno di utilizzo. E analizzando la potenza di segnale dei device intorno a noi, ripeto, completamente anonimizzata, possiamo sapere il tempo di esposizione e la distanza da un possibile caso poi risultato sospetto o confermato avente il coronavirus. La conferma, qui ecco, mi leggo a un altro punto di cui parlavi, la conferma del caso sospetto o confermato arriva da uno staff medico che avrà a disposizione l'app analoga per i medici, quindi previa autenticazione saranno in grado di fare lo scan del codice del cellulare, del QR code del paziente e in modo completamente anonimo, noi non sappiamo chi sia questo paziente, non sappiamo i numeri dei cellulari delle persone che stiamo avvisando, tramite tecnologie di push notification avvisiamo immediatamente tutte le persone che hanno passato più di 15 minuti a meno di 2 metri del tempo con il caso sospetto. Quindi di fatto non lo sa nessuno, ma è il sistema che lo sa, tramite questi numeri anonimi che vengono associati, sì, che non è un'identità, ad un numero di quello positivo. Esattamente, noi non abbiamo il numero di cellulare, non abbiamo il nome, il cognome, le posizioni GPS, niente. Molto di questo è basato proprio sulla collaborazione dei cittadini, nel senso che una persona viene avvisata di un possibile contagio, a quel punto uno si deve attivare e richiedere il controllo, o è possibile che qualcuno inviti tutte le persone che sono entrate in contatto ad andare a farsi controllare. Ecco, per noi, noi abbiamo iniziato questo progetto dicendo dobbiamo aiutare le persone, siamo italiani, abbiamo chiaramente, lo devo dire, ho mia nonna 94enne che sta vivendo da sola a casa da 2 settimane, i miei genitori di 60 in quarantena ormai, come tantissimi altri cittadini italiani, e quindi abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa. Il primo step era proteggerli e proteggere anche il loro anonimato. Abbiamo visto applicazioni in Corea del Sud, in Cina, adesso anche in Italia, che effettuano il tracking e mostrano su di una mappa dove sono le persone infette. Abbiamo anche visto scene di violenza nei confronti di queste persone, quindi chiaramente volevamo evitare tutto questo. E quindi anonimato per noi è estremamente importante. Quello che succede quindi è che noi mandiamo, in caso di esposizione al virus, mandiamo dei messaggi estremamente chiari, delle istruzioni per non far sentire soli i cittadini in un momento così delicato, chiedendogli di seguirle, di seguire queste istruzioni chiare scritte da virologi, professionisti, che possono essere: se è stato vicino a un caso sospetto, ti consigliamo di rimanere in quarantena e se hai sintomi di chiamare il dottore. Qualora invece l'utente fosse stato vicino a un paziente confermato e per un tempo prolungato, il messaggio può cambiare ed essere: rimani in quarantena e chiama, stai sereno e chiama un dottore. Quindi a seconda del tempo di esposizione, a seconda del rischio della persona stessa, il messaggio cambierà. E chi prende poi la decisione di chiamare l'ospedale non siamo noi. Noi possiamo solamente informare i cittadini, mantenendo il loro anonimato. Non informiamo le autorità, non informiamo nessun altro, noi informiamo il cittadino sul da farsi. La condizione perché questo sistema sia efficace è che prima di tutto venga installato da un numero importante di persone e che abbiano sempre il Bluetooth acceso. Sì, allora, questo è molto importante. Abbiamo visto la risposta da parte dei cittadini in altre nazioni, una risposta molto importante, si trattava di più di 500.000 download al giorno, quindi crediamo che in questo momento i cittadini vogliano una soluzione che tuteli la loro salute e la loro privacy. Abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni per parlare con i cittadini, ovviamente, e sì, dovranno tenere il Bluetooth acceso. Come dicevamo prima, si tratta di Bluetooth Low Energy, quindi il consumo è molto basso. E un altro punto è la registrazione al servizio, si scarica l'app, con 2 clic, senza inserire nome, cognome, cellulare, nient'altro, con 2 clic si può accedere al servizio ed essere così tutelati. Ti faccio un'ultima domanda, perché alcuni ascoltatori potrebbero dire: ma come? Tu dici che il GPS ha una precisione tra i 10 e i 60 metri, invece io lo uso spesso in applicazioni e mi dice che sono all'angolo di una strada, quindi è molto preciso. Si tratta di calcoli effettuati da Google, o in questo caso da Google Maps, da Apple Maps, che correggono la posizione sapendo che si sta in strada. Il GPS su di un cellulare, abbiamo ingegneri che hanno lavorato in precedenza con società di tracking GPS ed altro. Il GPS, lo si può studiare, lo dicono anche queste società, ha una precisione massima ad oggi di 10 metri. Non funziona nella metro, quindi nei posti ad oggi più a rischio, non funziona bene sui mezzi pubblici, all'interno di luoghi nei quali si possono svolgere conferenze, perché sono al chiuso, quindi ha le sue limitazioni in termini di precisione e in termini proprio di utilizzo al chiuso. Questo per dire che molto spesso la tecnologia offre delle soluzioni alle quali magari non molti pensano, perché effettivamente nelle ultime settimane si è parlato molto di tracking GPS, si è parlato anche di triangolazione delle celle, ma come abbiamo chiarito anche la settimana scorsa, fare questo con le celle telefoniche alle quali uno smartphone è collegato è molto poco preciso. E come avevo detto anche col GPS, in effetti un ascoltatore mi ha scritto questa settimana dicendo: ma adesso si stanno facendo queste ipotesi, io abito, come del resto moltissimi, in una casa, a fianco a me c'è un altro appartamento, se tutte e due siamo vicini ad un muro, siamo sicuri che il GPS riesce a capire se io sono in un appartamento oppure in un altro appartamento? Ecco, questa soluzione ad esempio è una soluzione che è molto più precisa e quindi risolve anche tutti i problemi di privacy. Se volete saperne di più, abbiamo messo un link sul nostro sito internet con alcuni dettagli in più. Certo è che vedremo quello che farà la task force dei ministeri, che dovrà scegliere quali soluzioni adottare, perché dovrà essere una soluzione di Stato, anche perché gli App Store attualmente non permettono di pubblicare applicazioni su Covid-19, sul coronavirus, a meno che non siano garantite da un'istituzione alle spalle, che sia un'istituzione sanitaria, lo Stato, eccetera, eccetera. Un altro capitolo sono le soluzioni di telemedicina. Allora, un esempio già attivo è stato creato per venire in aiuto all'ospedale di Lodi, fra i primi a dover affrontare l'emergenza coronavirus, è Z-Care di Zucchetti, come ci ha spiegato Domenico Uggeri, che è vicepresidente di Zucchetti, che è la più importante azienda di software in Italia, una soluzione gratuita che le strutture sanitarie possono richiedere a Zucchetti e sulla quale già da un mese Zucchetti si era attivata, visto che appunto Lodi è stato forse tra i primissimi ospedali a dover affrontare questa emergenza. L'ospedale di Lodi, siamo venuti in contatto con l'ospedale di Lodi perché nei periodi, proprio nei primi giorni in cui è scattata l'emergenza, noi li avevamo contattati per capire che cosa potevamo fare, quale aiuto potevamo dare come azienda del territorio. Ci hanno risposto che più che, direi, contributi economici, che in quel momento non servivano, loro avevano bisogno di aiuti organizzativi. Quindi da lì l'idea di sviluppare il servizio Z-Care, proprio perché loro non avevano il problema, no? Che un grande afflusso di pazienti che si presentavano al pronto soccorso degli ospedali di questa zona, cioè non solo di Lodi ma anche di Codogno e altri del distretto, costringeva il personale medico alla scelta di procedere o meno al ricovero dei pazienti più gravi e di dover inviare alle proprie abitazioni quelli che non presentavano una sintomatologia ritenuta cronica e critica. Perfetto, quindi voi avete fatto? Cosa avete realizzato? Noi alla fine abbiamo realizzato velocemente il tutto in 8-10 giorni, un portale che permettesse di registrare, quindi di monitorare i pazienti che venivano dimessi o che contattavano eventualmente il pronto soccorso o quant'altro e non erano ospedalizzati per poter essere monitorati dalle proprie abitazioni. Questo database che voi avete realizzato permette ai medici, al personale sanitario dell'ospedale di Lodi di fare un monitoraggio, quindi di sapere la temperatura, il grado di saturazione del sangue, la frequenza cardiaca, eccetera, eccetera. Molte di queste rilevazioni vengono fatte con delle telefonate un paio di volte al giorno, però si può fare un po' di più, anzi, bisognerebbe fare un po' di più. Attraverso la tecnologia Bluetooth o IoT, chiaramente per i driver fisici che sono predisposti per queste tecnologie, no? Quindi i saturimetri piuttosto che altri, questi permettono, ci consentono invece di passare dal call center di trasmettere automaticamente al portale questi dati in modo automatico, chiaramente dove ci sono, dove c'è la strumentazione predisposta per questa tecnologia. Da quanti anni parliamo di telemedicina e purtroppo ancora molte strutture ospedaliere, direi moltissime, non hanno le dotazioni. Quindi benvengano queste iniziative e ricordiamo che sono arrivate al portale Innova per l'Italia 504 soluzioni di telemedicina che dovranno essere valutate. Questi sono temi su cui torneremo ovviamente nelle prossime puntate. Adesso abbiamo una breve pausa, tra poco parliamo di cybercrime. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. A tra poco. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10 con la nostra breve replica. Ma trovate una ricca puntata online con tutte le nostre interviste in edizione integrale, il nostro super podcast. Potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, mi trovate anche su Facebook, LinkedIn o Twitter se volete utilizzare quegli strumenti. Con l'aumento delle ore passate online e con molte persone che si avvicinano per la prima volta a servizi online come l'e-commerce, l'home banking, eccetera, eccetera, cresce il rischio di truffe digitali. Saluto Paolo Dal Checco, esperto di cyber security e di informatica forense. Paolo, bentornato a 2024. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dal tuo punto di vista, che cosa sta succedendo con questi cambiamenti che stiamo vivendo dal punto di vista del crimine digitale? Ma sicuramente i criminali tradizionali hanno poco lavoro in questo periodo, quindi credo che stiano tentando di riciclarsi per spostarsi verso il mondo online. Si vedono tra l'altro anche delle truffe abbastanza malfatte, probabilmente sono loro che stanno tentando di imparare il mestiere. Sicuramente in questo periodo in cui la gente è online 24 ore al giorno praticamente, consideriamo che chi vuole comprare tramite e-commerce spesso aspetta la notte perché di giorno i siti sono intasati, per cui possiamo veramente parlare di 24 ore al giorno di occupazione di banda. Chiaramente i criminali tentano di approfittarne, quindi vediamo delle conseguenze abbastanza disastrose. Tu hai proprio notato un aumento delle richieste di aiuto da parte delle persone? Sì, le richieste di aiuto stanno aumentando parecchio. E sono di diverso tipo, alcune sono legate a episodi, al nome coronavirus o Covid o simili, altre invece sono richieste di aiuto su truffe tradizionali che in questo periodo però stanno impattando molto di più rispetto al passato. Ok, partiamo da alcuni esempi di truffe tradizionali che appunto si ripetono, ma ovviamente in questo momento, già mettendo la parolina Covid-19, coronavirus e altre parole correlate, ovviamente fanno incuriosire le persone che ricevono o una mail o altro tipo di messaggio, quindi cadono nelle classiche truffe. Immagino che molto sia phishing, cioè ti arriva una mail oppure anche un SMS. Ho notato che arrivano anche degli SMS strani in questo periodo. Sì, il phishing è sicuramente ancora uno dei mezzi di attacco tra i più efficaci, soprattutto in questo periodo nel quale tanti utilizzatori della rete sono persone non esperte, ci sono persone anziane, persone che prima non usavano il computer per navigare in internet o per fare la spesa, adesso, per non dover uscire di casa, si trovano invece costretti a farlo. Per cui non sono stati vaccinati, parliamo proprio di una sorta di vaccino digitale, a gestire tutti quegli attacchi di posta elettronica che arrivano con la mail che dice di connettersi al conto online per verificare eventuali attività sospette, che chiedono di connettersi alla propria casella di posta elettronica. Ecco, sono persone che quando ricevono queste mail tendenzialmente ci credono, perché non hanno avuto il tempo di vaccinarsi nella vita normale fuori da questo periodo di emergenza. Per esempio, mi è arrivata pochi minuti fa una mail da parte di una finta banca che chiede appunto di connettersi online per verificare eventuali attività illecite. Ovviamente questa è una mail di phishing, cliccando sul link si arriva ad un sito identico a quello della banca originale, ma questo è il punto d'ingresso per attività poi di deviazione di bonifici, che vengono poi fatte anche sfruttando il fatto che nel momento in cui l'utente inserisce le proprie credenziali e il codice di accesso che ricava sul token o sulla app, quindi su quei dispositivi dove vengono letti i numeri, questi codici possono essere intercettati e utilizzati dai delinquenti per fare dei bonifici diversi da quello che l'utilizzatore invece stava facendo. Per cui la persona sta pagando un affitto di 500 euro al suo affittuario, in realtà quel bonifico diventa per la banca un bonifico di 9.900 euro verso un qualche conto estero, del quale però purtroppo ci si accorgerà sempre molto tardi, perché il sito della banca, visto dalla persona che ha il computer infettato, rispecchia quello che lui crede di aver fatto, per cui lui vede il bonifico come lo ha fatto lui, ma in realtà è partito un bonifico diverso. Questa è una truffa ormai abbastanza antica, che in questo momento, in questi giorni, sta andando veramente molto alla grande. Certo, perché il sito che la persona attaccata, che ha il computer infettato, di fatto è un sito finto, fasullo. Esatto, si vede un qualcosa che in realtà non è la realtà. Più nello specifico, diciamo, legato a questo momento di coronavirus, tu hai visto e notato qualcosa di particolare? Perché quello che abbiamo descritto fino adesso è phishing trasformato, con qualche parola chiave, nel periodo di coronavirus. C'è invece qualcosa di più specifico legato a questo momento? Allora, ci sono tre o quattro tipi di truffe legate allo specifico momento e al coronavirus. La prima è legata alla vendita di prodotti, per esempio mascherine, disinfettanti, legati a questo periodo, che vedono innanzitutto dei prezzi spesso eccessivi, ma qui non è una truffa digitale, è una truffa tradizionale. Però molto spesso invece quello che accade è che poi questi prodotti, nonostante vengano pagati tanto, non arrivano. Per cui comprando online su siti poco raccomandabili, o magari dove ci sono utenti registrati da pochissimo, per cui siti raccomandabili dove però l'utente che vende le mascherine si è registrato ieri e non ha mai fatto una vendita prima d'ora, bisogna fare attenzione, perché spesso le mascherine che si vanno a comprare poi non arrivano. E quindi mi chiamano i clienti dicendomi: ho speso 1000 euro per delle mascherine e non mi è arrivato nulla. Chiaramente è una truffa tradizionale che adesso sfrutta lo stato di necessità. Altra truffa particolare legata al coronavirus è l'utilizzo di domini internet con all'interno la parola coronavirus, covid o simili. Io li sto monitorando da circa un paio di mesi, registrando tutti i domini nuovi attivati ogni giorno, e ce ne sono sempre diverse decine, se non centinaia, legati al coronavirus. Alcuni sono siti informativi, altri sono siti che invece contengono del malware. Ad esempio, la società Domain Tools da pochi giorni offre un servizio gratuito che permette di elencare tutti i siti a rischio contenenti la parola coronavirus o covid, o comunque legati a questo fenomeno. Per cui, per esempio, le aziende potrebbero attivare dei filtri su quei siti in modo che i loro utilizzatori evitino di andarci a finire sopra, per diversi tipi di truffe, incluse anche l'installazione di malware o simili. In questo caso dei domini, cioè di nuovi siti, si sfrutta la curiosità, che ovviamente è molta in questo periodo, per pubblicare magari o notizie o che ne so, ricerche, grafici, cose del genere. Ma una volta che tu vai lì col tuo computer, magari un banner pubblicitario è un banner che ti infila del malware sul computer. Così funziona. Esatto, per esempio ci si potrebbe trovare di fronte a un banner che invita a scaricare un'app che ti permette di capire, di sapere chi intorno a te è infetto da coronavirus. Questa è un'app che effettivamente è stata rilevata da Kaspersky l'altro ieri, è stata scaricata da diverse persone. Cosa succede quando la si scarica? Che l'app propone questo servizio informativo di geolocation di tutti gli infetti nel proprio quartiere, nella propria città, a fronte di un pagamento di qualche euro. Nel momento in cui gli utenti fanno il pagamento di questi euro con la carta di credito, non si vedono sottratti i 2 euro per il pagamento, ma si vedono svuotata la carta di credito, o comunque fatto un prelievo della quantità massima prelevabile in una giornata, perché i codici della carta di credito sono finiti ai delinquenti. Non solo, sembra che questa app abbia anche la possibilità, una volta installata, sfruttando dei sistemi che su Android permettono per esempio agli ipovedenti di poter sentire le cose che sono scritte sulle app, quindi di poter utilizzare le app con l'udito, questa app sfrutta questo servizio per poter utilizzare anche le altre app e intercettare quello che l'utente sta scrivendo o vedendo sulle altre app. Quindi a questo punto è in grado non soltanto di, diciamo, rubare quei fondi presenti sulla carta di credito, ma anche di prelevare password, username, credenziali, e a quel punto poi perpetrare diversi tipi di truffe ulteriori. Senti, ti faccio una domanda proprio sulla tua attività. Molte di queste truffe, che appunto abbiamo detto assomigliano o sono identiche o uguali a quelle che abbiamo già visto e commentato altre volte in passato, indipendentemente dal coronavirus, sono facilmente individuabili? I criminali possono essere individuati, e chi è stato truffato perché magari ha pagato 1000 euro oppure gli si è infilato un malware che gli ha bloccato tutti i dati sul computer, cioè, si può avere giustizia o è molto molto difficile? La realtà purtroppo è che è difficile spesso avere giustizia in questo ambito, perché l'ambito digitale è delocalizzato. I criminali possono essere in paesi esteri nei quali la giurisprudenza italiana non riesce ad arrivare in tempi ragionevoli, o a volte proprio non riesce ad arrivare, e quindi questi criminali spesso sanno di poterla fare franca. Tra l'altro c'è anche l'ulteriore problema che in questo periodo tutti i servizi pubblici sono ridotti all'osso, e quindi ricevere migliaia di denunce per truffa per 200, 300 euro, 500, 1000 euro già è difficile nella vita normale. Figuriamoci adesso per la polizia postale, la procura della Repubblica, gestire migliaia di truffe diventa ulteriormente più complicato. I criminali lo sanno, e quindi sanno benissimo che in buona parte dei casi probabilmente non partirà neanche l'indagine. L'indagine può avere successo, e ce ne sono alcune che lo hanno. Per esempio, ieri ho letto la notizia di una truffa qui in Italia che è stata smascherata quando gli attori e gli autori sono italiani. Allora, in questo caso la giustizia riesce a muoversi abbastanza velocemente, può chiedere ai provider i dati relativi agli indirizzi IP, alle connessioni, ai conti bancari, e in qualche modo arrivare, se non a colpire il criminale, almeno a bloccare i fondi che stanno uscendo e restituire il mal tolto al poveraccio che era convinto di acquistare delle mascherine o di acquistare per 2 euro un servizio di localizzazione degli infetti intorno a casa sua. Senti, la truffa della sostituzione della SIM da inserire nello smartphone, che in qualche modo trasforma lo smartphone di un criminale nel nostro smartphone. Pensi che in questo periodo, col fatto che molte cose necessariamente devono essere fatte a distanza online, possa aumentare questo tipo di truffa, visto che solitamente come funziona questa truffa? Tu vai in un negozio con mille scuse, se sei molto abile a infinocchiare il commesso, oppure vai con un documento falso, ti fai dare un sostituto della SIM di magari Enrico Pagliarini. Spero di non aver dato un suggerimento ai criminali. Ecco, visto che adesso le cose vengono fatte a distanza, uno potrebbe dire: mi è andata la SIM, che ne so, nel frullatore, mandatemene una nuova, o no? Sì, hai perfettamente ragione. Il problema è che adesso per fare i bonifici nessuno va più in banca, quindi chiaramente anche chi era abituato, e c'erano ancora tante persone che andavano in banca per farlo, a fare i bonifici allo sportello, si trova costretto a sperimentare i conti bancari online. E nell'utilizzare i conti bancari online si installa le app e configura tutto quello che poi può essere utilizzato dai delinquenti tramite il SIM swap, quindi tramite questa clonazione, chiamiamola così, della SIM, che permette ai delinquenti di installarsi l'app presso un loro sistema. Tra l'altro sto gestendo alcuni di questi casi e sono sempre abbastanza impressionanti, perché spesso colpiscono persone che hanno usato pochissimo il conto bancario online, quindi è anche difficile capire come hanno potuto arrivare i delinquenti a identificarli come potenziali vittime, e ai quali è stato svuotato l'intero conto online durante la giornata nella quale la loro SIM si era disattivata. Quindi sicuramente questo è un problema che dovremo affrontare nel breve termine, perché tutti stanno utilizzando i conti bancari online, nessuno va in banca a fare un bonifico, anche perché le banche chiedono in questo periodo la prenotazione di un appuntamento, non c'è più lo sportello aperto, per cui chiaramente anche chi era restio a installarsi un'app sullo smartphone adesso lo fa perché non ha tante alternative. All'inizio della nostra chiacchierata abbiamo detto che i ladri tradizionali, i criminali tradizionali, hanno, se non proprio disoccupati, hanno dei problemi perché le persone sono in casa, quindi ad esempio quella strada è sbarrata. Ma riciclarsi, allora sappiamo benissimo che le organizzazioni criminali, le grandi organizzazioni criminali da tempo si sono spostate anche in parte online, ma per il crimine magari non così organizzato trasferirsi online è facile o non è mica tanto facile? Sì, non è facile. Penso che le organizzazioni criminali, quelle complesse e strutturate, puntino molto più sulle aziende ormai, dalle quali possono ottenere di più. Mentre invece i piccoli ladruncoli possono per esempio fare dei tentativi di phishing, fare dei finti siti internet dove vendere mascherine, dove sperare di ottenere delle credenziali di accesso a conti bancari, PayPal e robe simili, che tra l'altro molto spesso sono fatti così male che quando si analizzano si riescono persino a trovare i dati che loro stanno acquisendo, per cui si possono vedere i dati che loro hanno rubato e anche potenzialmente avvisare le vittime del fatto che sono state truffate e che quindi hanno lasciato i loro dati da qualche parte. Tra l'altro, parlando delle aziende, dobbiamo ricordare che in questo periodo di telelavoro, di smart working, le aziende sono andate di corsa a strutturare una soluzione che permettesse ai loro dipendenti di lavorare da casa, molto spesso in modo un po' artigianale. Questo ha fatto sì che stiamo verificando in questo periodo una quantità di attacchi alle aziende molto maggiore rispetto a quella che si rilevava prima, proprio perché le aziende hanno abbassato le difese, si sono trovate di colpo, diciamo quasi da un giorno all'altro, a non poter fare entrare i dipendenti in azienda e a doverli fare lavorare da casa. Le aziende che non erano strutturate sono corse ai ripari con delle pezze in sostanza, alcune hanno aperto delle porte per poter accedere alla rete interna senza pensare a filtrare in alcun modo i tipi di accesso dall'esterno, e queste aziende si sono trovate la mattina dopo con i dati in azienda criptati, perché chiaramente aprire le porte in modo indiscriminato ha fatto entrare anche i criminali che, con i soliti ransomware che ormai conosciamo da anni, hanno ritrovato una vita che stava diventando sempre più difficile, potendo quindi entrare in aziende dove fino a ieri non riuscivano ad entrare. Altro grosso rischio invece legato a questo smart working è il fatto che nel momento in cui noi permettiamo, che l'azienda permette al computer del dipendente di entrare nella rete aziendale, quindi per esempio tramite una VPN, si trova al suo interno dei computer che non ha avuto la possibilità di controllare, quindi di disinfettare, diciamo, di verificare dal punto di vista della sicurezza. E per cui se il computer del dipendente, che a casa magari era stato usato fino allora prima dal figlioletto che si era installato app e giochi un po' a caso su internet, si trova l'ora dopo dentro l'azienda, e se c'è qualcosa di potenzialmente problematico in quel computer può attecchire anche l'azienda. Per cui è importantissimo che le aziende si regolino nel gestire le modalità con le quali lasciano che i dipendenti accedano al proprio interno, cercando per quanto possibile di considerare i computer dei dipendenti come insicuri e quindi lasciare che si connettano, ma con dei privilegi di accesso ridotti rispetto a quello che invece si concede a un computer interno che è controllato dai responsabili tecnici su cui sono installati i sistemi di endpoint protection, di antivirus, e che hanno in qualche modo qualche garanzia in più, non si avrà mai la certezza ovviamente, di non essere infetti. Questo è molto interessante, anche in questo caso vale la regola che se ci si fa trovare preparati si gestiscono i problemi, se si è impreparati ovviamente ci sono tutti i rischi. A proposito di aziende, vale, diciamo, quello che sta succedendo adesso è un po', mutatis mutandis, quello che succede in altri casi, quando non si riesce ad entrare direttamente nell'azienda, ma magari si bucano i sistemi di un fornitore che in qualche modo è collegato con l'azienda, e quindi dal fornitore si arriva in azienda, oppure si buca una stampante. Oggi le stampanti sono collegate non solo al nostro computer, ma sono collegate ad internet, perché si può stampare da remoto, e quindi magari una stampante che ha un software non aggiornato, o che ne so, un router non aggiornato, e da lì ci si infila e si entra in azienda, giusto? Esatto, sì, si può chiamare anche movimento laterale. Non si riesce a entrare direttamente, si entra su qualcosa di più debole, che può essere il computer della segretaria, la stampante o appunto lo smart worker che da casa si connette col PC del figlio, e da lì poi ci si muove lateralmente e si arriva invece ai server centrali, e a quel punto diciamo che i danni sono molto più gravi. Bene, quindi così come nella vita di tutti i giorni bisogna essere estremamente prudenti, soprattutto in questo periodo, non avvicinarsi alle persone, non toccare troppe superfici, lavarsi sempre le mani, insomma tanti consigli che anche noi a Radio 24 diamo molto, molto spesso, e ormai molti hanno imparato. Bisogna avere un certo, diciamo, aumentare la prudenza anche online. Paolo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie mille, un saluto a tutti. Adesso vi invitiamo a fare una serie di riflessioni sulla dipendenza tecnologica dell'Unione Europea, o la indipendenza tecnologica, che non c'è, però auspicata. Allora, un dibattito non nuovo che emerge con maggior forza in queste settimane: quasi tutti i servizi che stiamo utilizzando per videoconferenza, streaming video, collaborazione online sono forniti da aziende americane. Quasi tutti, non tutti. E Bruxelles deve telefonare a Washington per chiedere aiuto, come ha fatto ad esempio recentemente il commissario Breton, chiedendo a Netflix, YouTube e poi anche ad altre aziende di abbassare il bitrate per alleggerire le reti internet europee. Saluto Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni a Bruxelles. Innocenzo, bentornato a 2024. Grazie a voi, buongiorno. Allora, dicevo, Innocenzo, che non è certo un dibattito nuovo. Sì, è un dibattito non nuovo, ma comunque abbastanza recente, perché è entrato nell'agenda europea negli ultimi 12-18 mesi, ed è entrato alla grande perché ci si è resi conto che è un problema molto importante. Le tematiche iniziali sono state soprattutto quelle della sicurezza e del 5G, e quindi della dipendenza da alcuni fornitori cinesi. Poi ci si è messo anche Trump con la sua guerra commerciale, ha fatto capire che anche un potenziale alleato come l'America, dalla quale dipendiamo, ci può creare potenzialmente anche dei problemi. E allora l'Unione Europea ha cominciato a rendersi conto di quanto gli Stati membri siano dipendenti da un punto di vista tecnologico, industriale, da potenze straniere i cui rapporti possono variare nel corso del tempo. Che cosa si può fare? Perché l'Unione Europea ha già attivato un dibattito, ha fatto anche una serie di proposte, però effettivamente uno dice, vabbè, ma il mercato decide che questi sono servizi che funzionano meglio di altri, e questi servizi vincono. Che cosa ci si può fare? Sì, allora l'Unione Europea ne è consapevole ormai da un po' di tempo. Ho accennato il tema del 5G, ma vi è anche quello delle piattaforme in generale, cioè dello strapotere di quelle piattaforme online che a noi sono molto familiari e che sono estremamente pervasive, come Google, Facebook, Amazon. E ci si deve chiedere perché queste piattaforme siano non europee. L'Unione Europea ha per questo lanciato una vasto programma di consultazioni e di potenziali riforme lo scorso 19 febbraio. Si chiama la nuova strategia digitale europea, ed è un pacchetto molto importante che prevede una lunga serie di misure che ovviamente devono essere ancora concordate, soggette a consultazione raffinate, che riguardano l'intelligenza artificiale, le piattaforme, le reti, l'uso dei dati, per fare solo alcuni esempi. Ovviamente il ruolo dell'Europa è quello in alcuni casi di coordinare, in alcuni casi di sottoporre delle proposte agli Stati membri per avere delle misure più incisive. Ad esempio, tra le misure che possono essere proposte è quello di imporre in certe condizioni l'interoperabilità tra i servizi. Che cosa vuol dire? Che un nuovo servizio di comunicazione europeo o di messaggistica potrebbe avere il diritto di interoperare con servizi già esistenti, quindi con Skype, con Messenger e con i servizi similari. Sì, sì, WhatsApp, cioè, certo, perché noi siamo nati e cresciuti con sistemi che erano nati interoperabili, perché ad esempio pensate la telefonia mobile. Tu compri uno smartphone di una marca, parli con lo smartphone di un'altra marca e magari tu hai un operatore A e risponde il tuo interlocutore con l'operatore B. Questa è l'interoperabilità. Oggi se io voglio fare una videochiamata con Innocenzo Genna su WhatsApp, la faccio solo con WhatsApp, non posso integrare i due sistemi. Quindi questo è un tema che ovviamente sì, l'Unione Europea potrebbe imporre. Ci sono già degli standard a cui si potrebbe aderire, certo. Sì, ed è un ottimo esempio, perché possiamo immaginare che se questa interoperabilità non fosse esistita nel mondo delle telecomunicazioni, cioè non fosse stata regolata, imposta, sarebbe stato molto difficile per un nuovo operatore, per un nuovo produttore entrare in un mercato dove già la gran parte dei clienti operava con un concorrente. L'interoperabilità quindi permette a un nuovo entrante di entrare e quindi di in qualche modo non essere svantaggiato per il fatto di non avere molti clienti all'inizio. Nelle telecom questo aspetto è stato normato fin dall'inizio. Perché? Perché era un mercato dove esistevano dei grossi operatori storici che andavano regolati. In internet no, perché all'inizio non vi erano operatori dominanti, è stato visto come un mercato molto competitivo in cui bisognava solo far crescere, però le cose sono cambiate perché si sono creati delle posizioni dominanti simili a quelle che avevamo 20 anni fa nella telefonia, e quindi dobbiamo porci il problema se una qualche regolamentazione sia necessaria e soprattutto se si possa imporre un obbligo di interoperabilità fra gli altri. Chiaro. Altre cose che si potrebbero fare concretamente? Allora, un tema è quello antitrust, e cioè che gli europei sono in grado di lanciare delle iniziative innovative, intelligenti, che possono crescere, però poi molte di queste start-up alla fine vengono comprate da altri operatori, soprattutto esteri. Facebook, Apple, Google comprano moltissimo. E bisognerebbe cominciare a pensare se la politica antitrust non debba anche proteggere i gioiellini tecnologici europei, appunto per evitare che gli investimenti in risorse o appunto in finanza fatte dagli europei non vadano alla fine a divenire parte di conglomerati stranieri. Non dimentichiamo che nell'ambito delle grandi piattaforme americane vi sono anche delle aziende che originariamente erano europee, ad esempio Skype. Il tema è che la politica antitrust normalmente ha dei paletti molto rigidi nella sua applicazione. Molto spesso non si prevede di proteggere una startup da un'acquisizione straniera, perché la startup di per sé non ha una quota di mercato molto importante, però potrebbe creare potrebbe avere un brevetto, potrebbe avere delle grandi aspettative di crescita. Sì, certo, poi diciamo bisogna capire molte startup vengono fatte anche proprio con l'obiettivo poi di essere vendute, la famosa exit, che di per sé appunto è una cosa buona per il mercato, però il discorso che tu stai facendo vale molto quando ci sono dei finanziamenti pubblici europei per, ad esempio, se guardiamo al panorama italiano, moltissimo del venture capital di fatto arriva da denaro pubblico, grossi fondi di investimento sono finanziati dal denaro pubblico. Allora in quel caso effettivamente è una domanda che ci si potrebbe fare, cioè mettere dei vincoli: se una startup è stata finanziata dai soldi dei cittadini che hanno pagato le tasse, che non finisca in altri paesi. Non che ci stanno antipatici gli americani, anzi tutt'altro. Questo è un po' il discorso, giusto? Sì, ma è un discorso complesso, perché non si può semplicemente proibire, sì. Ovviamente. È chiaro che se una startup vede che in Europa non avrebbe la possibilità di farsi comprare da qualche grande operatore, potrebbe magari andarsi a stabilire altrove. Quindi bisogna anche capire pro e contro di queste misure, però bisogna esserne consapevoli, bisogna sapere che molte aziende europee importanti che hanno avuto successo sono state poi comprate da stranieri, quindi bisogna tener conto di questo aspetto. Chiarissimo. Comunque sì, effettivamente è un discorso molto complesso, molto delicato, ma è un punto di riflessione che vogliamo appunto sottolineare. Altre cose che si stanno pensando che si potrebbero fare a livello di Unione Europea, che ha ovviamente dei seri problemi di mercato, perché altri paesi riescono con tutto un sistema che conosciamo molto bene, in modo particolare gli Stati Uniti, a portare aziende sul mercato e farle crescere. Altri paesi hanno una grossa spinta statale, pensiamo ad esempio alla Cina o anche altri paesi. Qui in Europa, insomma, di problemi da questo punto di vista ne abbiamo, però certo qualcosa bisognerà pur fare. Che cos'altro? Beh, ad esempio la politica degli appalti pubblici. Allora, la pubblica amministrazione in tutti i paesi è un grande acquirente di tecnologia, e questo fa sì che i suoi servizi migliorano, però peraltro crea anche un ulteriore problema, cioè di utilizzare dei fornitori che trattano i dati degli utenti sotto vari profili, sanità, fisco, eccetera. Attualmente a questi appalti pubblici partecipano tutti gli operatori, e se uno va a vedere le quote di mercato, ancora una volta le piattaforme, gli operatori non europei hanno una presenza importante, se non stradominante, nella fornitura ad esempio di cloud, di servizi tecnologici alle pubbliche amministrazioni. Dovremmo chiederci se non vi siano delle alternative europee nella fornitura di questi servizi, perché è chiaro che la spesa pubblica permette al settore privato di crescere. Se però la spesa pubblica viene indirizzata verso dei grandi operatori dominanti non europei, il settore privato europeo ne soffrirà parecchio. Certamente. È un discorso un po' complicato, un po' delicato, perché non è chiaro che gli appalti devono anche mirare comunque al miglior servizio, al benessere generale. Eh sì. Ma resta il fatto che se uno pensa agli appalti pubblici in America o in Cina, in questo settore tecnologico non penso che le aziende europee abbiano alcun accesso. Sì, e uno potrebbe ribattere perché le aziende europee non sono competitive come quelle americane o quelle cinesi, però questo è un altro punto di dibattito, e anche in questo caso un desiderio che noi abbiamo di... Prego. Senza essere protezionisti, perché io non vengo da una cultura protezionista, però è anche vero che nell'ambito della grande amministrazione vi è un detto che io mi limito a citare, dice: non verrai mai licenziato se fai un contratto con IBM, con Microsoft, eccetera. Che cosa vuol dire? Che quando ti rivolgi a un grande attore del mercato, come dipendente statale che deve fare, dirigente statale che deve fare una serie di scelte, è chiaro che se vai dal grande e dal grosso non hai nessun problema, cioè anche se sbaglierà potrai sempre dire ho comunque scelto il meglio che c'era nel mercato. Sì. Ecco, forse ci vuole un pochino più di coraggio, ci vuole che la pubblica amministrazione faccia un maggiore scrutinio di tutte le possibilità che ci sono nel settore privato europeo, e dare una chance anche a quelle. Grazie ad Innocenzo Genna per essere stato con noi. A presto, buon lavoro, e anche tu in Belgio devi stare in casa. Sicuramente, grazie, arrivederci. È tutto per questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Torniamo la prossima settimana. Non perdete la buona abitudine di scrivere. Io leggo tutte le email, a volte non riesco a rispondere, cioè purtroppo spesso non riesco a rispondere a tutti. Però teniamo nota, e quindi torneremo su alcuni temi che ci avete indicato, sollecitato nelle prossime settimane. Tanto purtroppo questo lockdown, questo blocco in casa durerà ancora per un po' di tempo, presumo per tutto il mese di aprile, e quindi avremo tempo per tornare su alcuni argomenti che riguardano in modo particolare tutto quello che è collegato ai cambiamenti che stiamo vivendo, che molti dicono, ma io sono d'accordo con loro, in alcuni casi rimarranno nel tempo. Molta gente si sta spostando online, sta scoprendo servizi online, e molta gente, anche dopo, quando torneremo alla vita normale, rimarrà online per, che ne so, far la spesa, eccetera eccetera. Grazie a tutti, ci risentiamo la prossima settimana.